Siamo sempre noi, Leana e Carlotta, Fujiko Factory, e siamo in compagnia dell'ospite, del secondo ospite di oggi, che è Elisa. Elisa, la cantante dei Blue Days. Ciao Elisa! Ciao, ciao ragazze, grazie mille, ciao a tutti. Grazie a te per essere qui con noi al telefono. Allora, innanzitutto è uscito il vostro singolo Hodad, io voglio assolutamente che mi spieghi cosa significa. Allora, è divertente in verità. Allora, Hodad, poi questa la pronuncia è un mistero, ma andremo a scoprirlo nel tempo. È quello che va in spiaggia con i surfisti, che si veste come loro, cioè a tutti gli effetti è un surfista ma non fa surf. Ah, ok. Quindi è quello che porta la chitarra, che suona, che mentre gli altri vanno a cavalcare le onde sta in spiaggia magari a provarci con le ragazze, insomma una roba del genere. Ah, un piaccione, un piaccione, il tipico romagnolo, insomma, diciamo. Il vitellone. Il vitellone, esatto. Esatto, e niente, noi abbiamo scelto insomma il brano, questo titolo per il nostro brano, perché il brano si rifà un po' alle sonorità del surf, no? Del surf rock, surf pop, eccetera, un po' anni 60 così, però nessuno di noi fa surf, assolutamente. Noi viviamo al lago, cioè col surf non c'entriamo proprio una mazza, ok? E quindi ci piaceva questo gioco un po' ironico, un po' da presa in giro, un po' da understatement, mettiamola così, legato al brano. In realtà poi il pensiero è che bene o male tutti, no, ci è capitato di raccontarci un po' più fighi di quello che siamo veramente, un po' più romanzati di quello che siamo veramente, e si tratta poi anche un po' di insicurezza a volte, infatti il brano parla poi di questo in verità. Beh, ci hai insegnato una cosa nuova, io non lo sapevo, sono molto curiosa, questa nuova parola. Ricordiamo, voi siete di Varese, giusto? Noi siamo la provincia di Varese, esatto. E il video, ci vuoi spiegare dove è stato girato? Appunto, lo accennavi prima, non al mare, ma al lago. No, non al mare, ma al lago, esatto, perché forse non... Allora, la provincia di Varese non è così conosciuta in verità, è una provincia che si chiama dei sette laghi perché abbiamo oggettivamente sette laghi, uno è il lago maggiore e gli altri sono laghi un po' più piccoli. Il video è stato girato sul lago di Monate, che è uno di questi laghi, che è il luogo dove noi passiamo l'estate principalmente, tra già bagni, chitarre e chiacchiere tra amici, ed è un posto per noi magico, ma... forse anche per il resto del mondo potrebbe esserlo. È molto dad, sicuramente. È un termine che adesso sfoggeremo tra i nostri amici per gasarcela un po', probabilmente, anzi sicuramente. O dad. Fate benissimo, usatelo come volete. Ci vuoi parlare un po' di come è nato il vostro gruppo? Perché tu sei la cantante e anche fondatrice dei Blue Days, no? Sì, allora, siamo in quattro. Io e altri tre baldi giovani maschietti, e ci siamo incontrati. Allora, noi siamo tutti e quattro amici da un sacco di tempo, tre di noi siamo anche colleghi, lavoriamo insieme per una radio, tra l'altro, quindi è molto divertente essere colleghi dall'altra parte in questo momento. Esatto. Esatto. E niente, ci conoscevamo già perché tutti suonavamo da tempo e meritavamo informazioni diverse ma amiche. E abbiamo deciso nel 2017 di fare qualcosa insieme. Inizialmente c'era una bellissima chat su WhatsApp dove continuavamo a scambiarci musica e dirci un sacco di cazzate, ma poi di fatto non provavamo mai. Alla fine abbiamo deciso, vabbè dai, forse conviene prendere gli strumenti, e così abbiamo fatto. È stato molto bello, nel senso che abbiamo voluto tutti e quattro provare a fare qualcosa di molto diverso rispetto a quello a cui eravamo sempre stati abituati, sia a livello di processo creativo sia a livello di genere musicale. Per cui abbiamo sperimentato moltissimo, ci siamo tutti spinti molto oltre la nostra comfort zone, ed è stato bello, cioè indipendentemente da poi il risultato che è uscito siamo super contenti del processo che abbiamo vissuto, e poi vabbè siamo amici quindi ci divertiamo anche, penso. E in questo periodo di quarantena come ve la siete cavata? Immagino che fosse in parti diverse, non abitavate insieme? No, non abitavamo insieme, e infatti è stato abbastanza doloroso, nel senso che adesso pensate che addirittura forse siamo una delle poche band al mondo che ha addirittura due sale prove, no? però è molto insolito. Sì, sì, è molto insolito. E la cosa veramente comica è che ne avevamo due, ma non potevamo accedere a nessuna delle due. E vabbè. Quindi è abbastanza inutile. Però adesso abbiamo trovato un modo per provare in sicurezza, visto che la situazione in Lombardia è ancora quella che è, e per cui abbiamo valutato che forse si può parlare a pieno titolo di reunion, visto che non stiamo insieme da diversi mesi ormai. Sarà stato insomma anche un po' commovente, come in tutte le reunion che ci sono state in questo periodo, immagino. Esatto. A maggior ragione per una band, insomma, deve essere molto a rallentatore come scena, no? Vista con una base musicale, magari è tutto molto molto cinematografico, sì, assolutamente. Esatto. Assolutamente. No, comunque non siamo riusciti a fare nulla se non lavorare digitalmente all'uscita del singolo, del video di riferimento, ma non abbiamo potuto suonare, se questa era la domanda, insomma. Ok, invece noi tra pochissimo sentiremo il vostro singolo, appunto, Hodad, e per chi appunto non vi conoscesse, vuoi un po' tu descrivere il gruppo, le influenze musicali, a chi vi ispirate? Ok, allora, in realtà ascoltiamo tutti un quantitativo veramente mostruoso di musica, per cui per questione di brevità farò soltanto qualche nome. In realtà quando abbiamo realizzato questo disco, questo lavoro, abbiamo ascoltato degli artisti abbastanza specifici che sono prettamente internazionali, mi vengono in mente dai Tame Impala ai Crew Hangbin, piuttosto che Bitiff, Kearney Barnett, potrebbero essere un sacco di Lana Del Rey, moltissimo, certe atmosfere malinconiche. Bello. Sicuramente sono influenzate da quello, però sono veramente tanti, ma adesso non so, mi vengono in mente anche i Cardigans, che in tanti hanno menzionato parlando di noi, piuttosto che i Grizzly Bear, insomma c'è stato veramente di tutto. ed è divertente poi, perché parlavamo anche per citazioni di canzoni lavorando, ma per Rullante perché non lo fai un po' più masterpiece di Big Thief? Vabbè, quindi ci sta. Sono tante le influenze, sicuramente tante. Bene, molto bene. Allora, noi sappiamo che in autunno uscirà il vostro album, è quasi completato, no? In realtà l'album è completo, cioè è pronto, ok? È pronto, ok. È pronto. In realtà avevamo deciso in tempi, insomma, verso l'autunno scorso che sarebbe uscito in questo periodo, no? Verso aprile. Ma poi, vista la situazione, abbiamo preferito aspettare un attimo, quindi l'album in realtà è pronto e adesso capiremo quali sono le prossime mosse, magari ci sarà un nuovo singolo. Ma ci siamo presi del tempo per vedere anche effettivamente cosa succederà nel nostro mondo, che è stato abbastanza sconvolto, ecco, negli ultimi mesi. Giusto. Quindi vedremo di capire un pochino, ecco. Bene, allora io direi che adesso possiamo ascoltarci Hodad dei Blue Days, e grazie mille Elisa. Grazie Elisa. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie mille. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, ciao, ciao. We'll be right back. Elise Hodad. Abbiamo appena avuto la cantante del gruppo Elisa, è stata una intervista molto interessante perché abbiamo scoperto anche il significato di nuovi termini, e questo non guasta mai, soprattutto insomma in ritrovamenti fra amici si possono sempre sfoggiare nuove parole nuove da con cui fare un po' i figli, no? Quindi perché tirarsi indietro da questo esibizionismo, no?